24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Si apre questa sera il vertice europeo a Bruxelles. Il governo tedesco è più pessimista di quanto lo fosse la scorsa settimana sugli esiti del summit, ha affermato una fonte dell'esecutivo. Questo perché le discussioni degli ultimi giorni mostrano che un certo numero di partner non hanno capito quanto sia grave la situazione, ha aggiunto la fonte. Sempre questo esponente anonimo, accreditato come interno al governo tedesco, ha ribadito come secondo Berlino sia assolutamente necessario che al vertice di Bruxelles venga raggiunto un accordo sul rafforzamento delle regole di disciplina di bilancio almeno a livello dei 17 paesi dell'area euro. Questo pessimismo non ha fatto bene ai listini europei. Torna la sfiducia sui mercati in vista del vertice europeo di oggi e le borse girano in negativo, con lo spread decennale tra BTP italiani e Bund tedeschi oltre 400 punti base. La peggiore d'Europa ieri è stata così Milano, dove il FTSE MIB ha ceduto l'1,2% e l'Allshare l'1,1%, mentre Parigi e Francoforte hanno perso rispettivamente lo 0,1% e lo 0,5%. A Milano in controtendenza le popolari UBI Banca più 4%, crolla invece Fonseca -5,8% in attesa del verdetto ISVAP sul veicolo per le partecipazioni strategiche. La compagnia assicurativa che fa capo ai Ligresti da inizio anno ha perso oltre il 70% e dal 19 dicembre dovrà peraltro dire addio al paniere principale, il FTSE MIB, a vantaggio di Salvatore Ferragamo. Quest'ultima, ieri, sulle ali dell'entusiasmo, ha recuperato il 3,5%. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. E ieri si è lavorato ancora per correggere la manovra. Ci sono state le audizioni in commissione. Da Roma, Vincenzo Miglietta. Giornata di audizioni nelle commissioni bilancio e finanze della Camera. Rete imprese punta il dito sulla manovra, è squilibrata su IVA e pensioni, dice il presidente Malavasi. Si colpiscono i più deboli, commentano i sindacati. Con il provvedimento lo Stato ha già risparmiato 19 miliardi di interessi sul debito, ricorda intanto l'Istat. Gli effetti del decreto sulla crescita saranno però negativi, dice il presidente Giovannini. Tempi ristretti intanto per l'iter parlamentare della manovra varata dal governo. Il presidente del Consiglio Monti ha incontrato quelli di Camera e Senato, Fini e Schifani, per concordare i vari passaggi. Obiettivo dell'esecutivo: chiudere la partita entro Natale. Quanto alle modifiche, i margini sono pochissimi, ha ricordato lo stesso Monti. Qualcosa tuttavia potrebbe cambiare, soprattutto sul tema dello stop all'indicizzazione delle pensioni. Un'intesa trasversale tra le forze politiche propone di elevare l'esenzione fino a 1.400 euro. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Di fronte alle misure anticrisi adottate dal governo Monti, protestano i sindacati che si ricompattano dopo 6 anni, a far discutere anche il taglio dei contributi ai giornali di partito e a quelli gestiti da cooperative diocesani. Ci sono molti posti di lavoro a rischio. L'articolo è il 29,3. Lì dentro c'è la fine o quantomeno le lacrime di molte testate, perché il sistema di contribuzione diretta, soldi pubblici per intenderci, elargiti ogni anno a giornali di partito, cooperative, pubblicazioni diocesane e stampa tradizionale, va in pensione il 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione dell'anno precedente. Ci avevano provato più o meno seriamente in molti. L'ultima manovra, firma Tremonti, aveva tagliato da 170 a poco più di 40 milioni i contributi. Monti ha eliminato il problema alla radice. Dal 1 gennaio però il governo si impegna a rivedere il sistema, selezione rigorosa dei soggetti destinatari e riduzione dei costi. Nel calderone ci sono tutti, quelli che non ne avrebbero bisogno come il Corriere della Repubblica e quelli per cui invece è fondamentale come il Manifesto, Avvenire, la Padania. Anche l'Avanti, diretto dalla Vitola, percepiva contributi di Stato. Sappiamo come è andata a finire. In Italia però c'è un problema che è alla base del contributo pubblico. Il numero di copie vendute ogni 1000 abitanti è il più basso tra i paesi occidentali. 103 contro le 152 della Francia, le 200 degli Stati Uniti, 307 in Gran Bretagna. L'esborso pubblico invece è inversamente proporzionale. Da noi ogni 1000 lettori la spesa è di quasi 9 euro, poco più di 8 in Francia, 4 negli Stati Uniti e addirittura 2,5 nel Regno Unito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grecia, via libera le nuove norme di austerità, più tasse e tagli agli stipendi per migliorare i conti e ottenere altri 130 miliardi di aiuti. Duri scontri fuori dal Parlamento. Mentre in piazza Sintagma infuriava un'altra battaglia tra contestatori e polizia, il Parlamento greco votava la finanziaria 2012. Il sostegno al pacchetto anticrisi del governo di coalizione, formato da socialisti, destra ed estrema destra, è stato solido, 258 voti su 299, e sono altrettanto robuste le misure varate per ridurre drasticamente il deficit. Nuovi rialzi alle tasse, tagli ai salari dei funzionari, riduzione degli stipendi del settore pubblico. Un piano, ha detto il premier Papademos, che ha obiettivi ambiziosi ma che dobbiamo raggiungere. L'esame del bilancio dello Stato era cominciato il 18 novembre ed uno dei nodi più difficili è stato quello del deficit degli enti previdenziali, causato dai tagli agli stipendi e dalle pensioni, dall'aumento della disoccupazione e dall'impennata della domanda di pensione anticipata nel pubblico impiego. La settimana prossima ad Atene riprenderanno gli incontri con i creditori privati della Grecia, che negoziano le modalità di cancellazione di una parte del debito pubblico del paese, mentre con BCE, Fondo Monetario ed Unione Europea si tratterà di riforme del mercato del lavoro, liberalizzazione delle professioni chiuse, servizi pubblici, sviluppo economico e competitività. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci trasferiamo a Durban per la conferenza internazionale sull'ambiente. I primi tre inquinatori del mondo, ovvero nell'ordine Cina, Stati Uniti e India, continuano ad opporsi alla prospettiva di un accordo internazionale legale e vincolante per la riduzione delle emissioni serra. Così, mentre il vertice climatico dell'ONU a Durban in Sudafrica entra oggi nella fase calda con l'intervento di 130 ministri dell'ambiente, nessuno può permettersi di pronosticare se il summit finirà venerdì con un disastro diplomatico o un modesto successo. Potremmo dire che il multilateralismo mostra tutti i suoi limiti, ma anche l'unilateralismo ha i suoi problemi. La decisione europea di tassare dal 1 gennaio le emissioni di tutti gli aerei in arrivo in partenza dall'Europa ha attirato ieri le critiche dell'India. Sembra una mossa commerciale mascherata da iniziativa ambientale, ha detto la ministra indiana per l'ambiente. Su questa vicenda però il verdetto arriverà presto. Si è saputo ieri che la Corte Europea di Giustizia non si esprimerà l'anno prossimo come previsto, ma il 21 dicembre. Marco Magrini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Durban. Un boss imprenditore con interessi in tutto il mondo, soprattutto in Spagna, il capo dei casalesi Michele Zagaria, è stato arrestato a Casa Pesenna, nel Casertano, dopo una lunghissima latitanza. Avete vinto voi, ha vinto lo Stato. Queste le prime parole del boss super latitante Michele Zagaria, ammanettato dopo ben 16 anni di latitanza. Il boss era nascosto nel suo paese a Casa Pesenna, nel Casertano, in un bunker sotto una camera della casa il cui pavimento si sposta sui binari per lasciare accesso al covo. Un rifugio, insomma, di ultima generazione, munito anche di telecamere di protezione e di televisori. All'interno della villetta, che è stata circondata dagli uomini dello SCO e dalle squadre mobili di Caserta e Napoli, l'individuazione del nascondiglio, la certezza degli inquirenti della presenza di Zagaria. Ci sono volute diverse ore per raggiungere poi il suo nascondiglio e infine arrestarlo. Detto capastorta, il capo dei casalesi è l'ultimo del clan ad essere catturato. Il boss è apparso molto invecchiato rispetto alle foto e agli identikit diffusi negli ultimi tempi. All'interno del nascondiglio la polizia ha ritrovato tra gli effetti di Zagaria anche i libri del magistrato Raffaele Cantone, per anni impegnato nella caccia ai camorristi nella DDA di Napoli. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. In chiusura la musica. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. A Milano ieri sera la prima della Scala, ad assistere al Don Giovanni diretto da Barenboim, il Presidente della Repubblica, quello del Consiglio e diversi ministri. L'opera è stata trasmessa in diretta anche in Europa da Arte ZDF, in Russia da TV Cultura e in 400 sale cinematografiche nel mondo. Il sovrintendente della Scala, Stéphane Lisner, al microfono di Marta Cagnola. È un momento particolare perché il Paese attraverso un momento di grande difficoltà, forse dalla fine della guerra a oggi non è stato un momento così difficile. È una serata particolare perché ci penso che oggi tutti i vertici dello Stato, del governo sono concentrati a Milano, alla Scala, dove c'è un luogo dove si fa musica, dove si fa teatro, dove si fa cultura. La cosa importante prima di aiutare la Scala è soprattutto di sperare che il governo considererà la cultura come un elemento centrale e darà l'attenzione a tutti noi, non soltanto alla Scala, ma a tutti i teatri italiani. Speriamo veramente che in questi momenti di difficoltà le cittadine hanno bisogno anche di cultura, hanno bisogno anche di essere riuniti insieme per affrontare questi momenti di grande crisi. Pensiamo che oggi, a partire dal diretto di questa sera, sarà più di 2 milioni di persone in Italia, all'estero, alla televisione, nel cinema, dappertutto, che potevo vedere e sentire questo Don Giovanni. E questo è un elemento forte della democrazia che ci consente a tutti che non possono venire di ascoltare anche questo spettacolo. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.